In questo mondo ci sono centinaia e centinaia di inviti. Le case produttrici invitano a comprare i loro prodotti. I capi politici invitano a votare per il loro partito. I capi religiosi invitano a far parte delle loro comunità. Fra tutti gli inviti c'è N, è uno che si mescola in mezzo agli altri, ma è sostanzialmente diverso. È diverso perché chi lo pronuncia non ha uguali. È diverso perché offre qualcosa che nessuno ha mai offerto né mai potrà offrire. Mi riferisco all'invito che l'Eterno Dio rivolge alla sua creatura. La Bibbia, cioè la parola di Dio, è nel suo insieme il grande invito di Cristo ad andare a Lui, ma prenderemo in esame solo alcuni di questi inviti per trarne le dovute considerazioni. Il primo invito che prendiamo in considerazione è quello che si trova nel libro dei Proverbi. La saggezza ha fabbricato la sua casa, ha lavorato le sue colonne, in numero di 7. Ha ammazzato i suoi animali, ha preparato il suo vino e ha anche apparecchiato la sua mensa. Ha mandato fuori le sue ancelle, dall'alto dei luoghi elevati della città. Essa chiama: chi è sciocco? Venga qua. A quelli che sono privi di senno dice: venite, mangiate il mio pane e bevete il vino che ho preparato. Lasciate sciocchi la via dell'intelligenza. La follia è una donna turbolenta, sciocca, che non sa nulla. Siede alla porta di casa, sopra una sedia, nei luoghi elevati della città, per chiamare quelli che passano per la via, che vanno diritti per la loro strada, dicendo: chi è sciocco venga qua. E a chi è privo di senno dice: le acque rubate sono dolci, il pane mangiato di nascosto è delizioso. Ma egli non sa che là sono i defunti, che i suoi convitati giacciono in fondo al soggiorno dei morti. Proverbi 9:1-18. Con la solita schiettezza sulla realtà, la parola di Dio riconosce che in questo mondo vi sono due voci che chiamano l'uomo, la saggezza e la follia. Per quanto siano numerosi i pulpiti, per quanto siano numerose le culture, noi siamo chiamati a rispondere a solo due richiami. Uno è la saggezza, cioè l'armonia con la vita, il benessere fisico e morale. L'altro richiamo invita apparentemente alle virtù della saggezza, ma come risultato porta dolore e sofferenza, e alla fine la perdizione eterna. Poiché nessuno nasce saggio e tutti siamo sciocchi, lo sciocco che sceglie la saggezza diventa saggio. Quello che sceglie la follia invece rimane tale. La stoltezza, e vivrete, camminate per. Un altro invito di Cristo lo troviamo nel profeta Isaia, e poiché il linguaggio è tipico della cultura ebraica, cerchiamo di renderlo attuale e attinente alla nostra cultura. Ascoltate la parola dell'Eterno. O capi di città perverse, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, o popolo di omosessuali. Che mi importa la moltitudine delle vostre messe, dice l'Eterno, sono sazio di profumi e di offerte. Le vostre messe non le gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi è richiesto questo da voi, che calpestiate i miei luoghi sacri? Smettete di presentare offerte inutili, l'incenso è per me un abominio. Non posso sopportare le vostre feste religiose, i convocare assemblee e l'iniquità, assieme alle riunioni sacre. Io odio le vostre feste solenni, sono un peso per me, sono stanco di sopportarle. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se siete disposti a ubbidire, le cose andranno meglio, ma se rifiutate e vi ribellate, sarete divorati dalla guerra, perché la bocca dell'Eterno ha parlato, Isaia 1:10-20. Che il credente si presenti davanti a Dio, che preghi, che faccia offerte, è secondo la volontà di Dio. Eppure se coche, È un atteggiamento che è fumo negli occhi a Cristo, è il cammino religioso formalista. La religione intesa come una serie di regole giusta e buona, ma quando queste regole diventano solo una forma e un motivo per coprire la malvagità del cuore, allora non vi è nulla di più odioso per Dio. L'invito di Cristo è che ci si presenti davanti a Dio con l'intenzione di voler cambiare un modo sbagliato di vivere adeguandolo al volere di Dio. E allora, e solo allora, il Dio trino delle Scritture è disposto a perdonare i peccati, ogni colpa, e riprendere un rapporto interrotto. Questo invito non è rivolto agli increduli, ma a tutti coloro che professano una fede cristiana, ma nella quale di fede cristiana non vi è quasi nulla se non addirittura proprio nulla. Sono troppi coloro che si professano cristiani, troppi coloro che pensano di credere in Cristo, ma il cui comportamento nega la loro confessione. Oggi è possibile vivere da omosessuali, da adulteri con dell'odio nel cuore e professarsi credenti cristiani, ma la colpa non è propriamente di queste persone, ma di coloro che sono veramente figli di Dio ed hanno perso i principi divini. Un terzo invito è rivolto in modo specifico a coloro che hanno sete di giustizia, a coloro che desiderano conoscere il vero Dio. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e la vostra anima vivrà, e io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie stabili promesse a Davide. Isaia 55, 1-3. Per quattro volte, in questo brano, l'Eterno invita gli assetati, i poveri in spirito, cioè gli umili, coloro che desiderano ottenere sapienza ma non sanno come fare, e coloro che desiderano udire parole di vita a conoscere Dio. E da tenere presente che l'Eterno ha già lanciato il suo invito ben prima che l'uomo si interessi a Dio, e questo per incoraggiare coloro che sono dubbiosi. L'invito dell'Eterno vuole colmare un vuoto insaziabile che esiste nel cuore dell'uomo, vuole dissetare chi desidera avere delle risposte a interrogativi quali: da dove vengo, chi sono e dove vado. Spesso, per svariate cause, nella vita siamo portati a mettere da parte certe domande che sono insite nell'esistenza di ognuno. Ma poi, per la legge che ogni nodo viene al pettine, ci ritroviamo in interrogativi senza fine quando siamo costretti a rispondere a qualcuno, o quando ci troviamo a varcare la soglia dell'eternità. Ho notato la baldanza e la sfrontatezza di alcune persone di fronte al messaggio del Vangelo quando erano in salute e la vita sorrideva loro, ma il loro atteggiamento è cambiato quando si sono trovate in situazioni molto dolorose, e soprattutto quando si presentava la prospettiva della morte. Da un certo punto di vista nulla di male, perché a motivo della nostra natura corrotta non possiamo sperare nulla di meglio, ma la gravità consiste nel non riconoscere la colpa di aver agito con orgoglio nei confronti di Cristo. Eppure, nonostante tutto, l'Eterno continua a presentare l'invito, il grande invito. L'invito è grande, perché è grande chi lo dirige. Se siamo invitati da un amico è una cosa, ma se siamo invitati dal Presidente della Repubblica, allora non possiamo far finta di niente. Come possiamo giustificarci davanti a Dio se trascuriamo il suo invito? Come possiamo lamentarci se abbiamo un'esistenza noiosa, insulsa, egoista? Chi può giustificare il mendicante che muore con un grande tesoro in tasca? L'invito dell'Eterno è un invito ad una ricchezza inestimabile. Poteva fare di più. Infine, vi è l'invito che Cristo Gesù indirizza a tutti coloro che desiderano una vita abbondante, fruttuosa, soddisfacente. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore. E voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Matteo 11:27. Ancora una volta è bene sottolineare che Gesù non invita a essere religiosi, a appartenere ad una religione o a fare del bene. L'invito di Cristo Gesù non è neppure per le persone che si trovano bene, che non si sentono bisognose, non si rivolge alle persone soddisfatte e spensierate, ma a persone scontente di se stesse, degli altri e della vita. Nel presentare l'Evangelo spesso ho trovato persone che non ne volevano proprio saperne nulla, non erano disposte a prendere una decisione per Cristo. Per loro la vita non li costringeva a pensare alle cose eterne, non erano nelle condizioni di dover andare controcorrente. Perché dovermi imbarcare in una nuova situazione, tra l'altro anche imbarazzante, quando tutto è a mio favore? E come voler costringere una giovane coppia di sposi a interessarsi dei disabili? Ma ecco che quando dovesse loro nascere un bambino disabile, allora, costretti dalle circostanze, entrano in centri per disabili, si informano sulla situazione dei disabili, vedono i disabili sotto un altro aspetto. Mentre prima non notavano nessun disabile, ora, ad un tratto, prendono coscienza di quanti disabili ci sono nel mondo. Che dire, ad un tratto, per la prima volta, notano che nel palazzo nel quale abitano vi è un disabile, con il quale arrivano addirittura a fare amicizia. Le circostanze impongono. Così, il Dio della Scrittura conduce la persona in situazioni difficili e a volte angosciose, non per il gusto di voler vedere soffrire qualcuno, ma perché in quelle condizioni l'uomo è più ricettivo verso le cose eterne, dato che un inganno, una delusione, una morte lo staccano dall'affetto per questa vita terrena e limitata, inducendolo a rivolgersi a ciò che non si vede e che dura per l'eternità. L'invito di Cristo è un invito d'amore, un invito di vero interesse, un invito a rinunciare ad un orgoglio intellettuale e religioso per ricevere la vera sapienza e la vera felicità. Se qualcuno non vuole conoscere né essere felice, allora il cristianesimo non fa per lui. Ma per chi desidera una vita piena di gioie e di promesse, unite alla sofferenza per Cristo, l'unica sofferenza che vale la pena avere, allora è opportuno accettare con saggezza l'invito di Cristo. Il grande invito. Gesù dice: venite, perché è già tutto pronto. Luca 14 e 16. Se grande è l'invito, grande è la pazzia nel rifiutarlo. Dicembre 2005. Ellero.